Salva Danaio di Deborah Rosciani. But we believe this program should ultimately provide up to $1 trillion in financing capacity. Definendo gli sforzi effettuati fino ad ora per contrastare la crisi finanziaria in atto inadeguati, il segretario al Tesoro americano che state ascoltando in sottofondo, Timothy Geithner, ha presentato ieri così il cosiddetto nuovo Financial Stability Plan, il piano di stabilizzazione del mercato, del credito e del settore bancario americano in crisi profondissima. Geithner ha spiegato che questo piano si muove su tre elementi: rafforzare e pulire le banche, il rilancio del credito e fornire un aiuto alle piccole imprese e ai proprietari immobiliari. Siamo ormai quasi a metà febbraio, il mercato è ancora in piena indecisione alimentata, ieri lo abbiamo visto da quello che è successo in borsa, proprio da queste notizie che sono arrivate dagli Stati Uniti. Come sapete, ogni tanto a Salva Danaio esploriamo il mondo finanziario, ovviamente buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, esploriamo l'umore degli investitori, le tendenze generali di mercato per capire se è possibile prendere qualche decisione relativamente ai nostri e ai propri investimenti personali. E magari oggi cominceremo proprio da quello che è successo ieri a Wall Street, che ha chiuso in netto calo con gli investitori delusi dal piano di sostegno al credito presentato da Geithner, un piano che è stato giudicato troppo vago e addirittura complesso. I titoli del settore finanziario ancora una volta ne hanno subito la maggiore penalizzazione. Wall Street ha chiuso in calo di oltre 4 punti sui principali indici, quasi meno 5 sullo Standard & Poor's, 3 punti e mezzo ieri di ribasso di nuovo sulle piazze europee e oggi ancora massima incertezza. È vero, negli ultimi mesi abbiamo visto anche delle giornate ben peggiori, ma il pessimismo non ha nessuna intenzione, a quanto pare, di smettere di pervadere il mercato. E allora, a che punto siamo della crisi? Chissà se stamattina voglia dispendersi con qualche considerazione anche su questo tema. Giuseppe Marsi, amministratore delegato di Schroders Italy SIM. Marsi, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato anzi a Salva Danaio. Grazie per avermi invitato. Eccoci qua, allora cercheremo di esplorare le possibili vie del recupero, quanto ci credono gli operatori, ma soprattutto cercheremo anche di capire, a seconda delle nostre personali scelte individuali di investimento, se stiamo in questo momento prendendo anche le decisioni corrette in relazione al particolare momento economico e finanziario che stiamo vedendo. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, 349 238 6666 è il numero invece in cui potete esprimere le vostre considerazioni con un SMS. Sulla situazione di borsa di questa mattina abbiamo già detto qualcosa, andiamo a vedere come si muovono gli indici. Parigi è ancora in calo, la partenza era stata di nuovo abbastanza pesante per i listini del vecchio continente, vedo che però qualche piazza sta tentando di rimbalzare, sta accadendo a Francoforte, sta accadendo a Londra, indici che si stanno muovendo sulla parità, mentre è più indecisa la situazione di Parigi, meno 0,26%, ancora di più per Piazza Affari che perde mezzo punto percentuale sul MIPTEL e sull'S&P MIB. Come dicevamo stamattina, il quadro era ancora peggiore, anche Milano ha risollevato un po' il morale, ma è ancora in rosso con il segno meno davanti. Titoli in luce: Tenaris più 2,73%, Unicredit più 1,91%, mercato che crede su rastrellamenti in corso per i titoli di Piazza Cordusio, Impregilo più 1,50%, Saipem più 1,37%, Snam Rete Gas più 1,16%, Italcementi più 0,90%, mentre non si arresta il calo di Seat Pagine Gialle, definiamolo un po' con un eufemismo così, meno 5% anche oggi è in difficoltà anche Telecom, meno 3,25%, nel settore bancario non tutti i titoli sono positivi, UbiBanca perde il 2,62%, l'Espresso meno 2,36%, Bulgari meno 1,90%, in corso di presentazione a Milano il piano industriale di Pirelli che ha avuto una giornata prevalentemente negativa e ancora è negativa ma in miglioramento rispetto a mattina, il titolo della Bicocca perde l'1,82%. Euro su dollaro a 1,2953, il petrolio è a $38 al barile. Questi sono i temi di giornata. Sentiamo però cosa è successo nelle ultime settimane sui mercati finanziari. Che sia stato toccato il fondo oppure, come pensano i più pessimisti, il peggio debba ancora arrivare, oggi parlare di investimento sembra un paradosso. Certo, non è ancora il momento di inseguire il recupero di quel che è andato in fumo nel 2008, con Piazza Affari che ha perso quasi metà del suo valore in un anno. si può, al limite, tentare di rivalutare il capitale, pronti a saltare sul treno della ripresa economica. Intanto, guardando ai risultati di borsa da inizio anno, le peggiori performance le hanno segnate in Italia, come nel resto d'Europa e a Wall Street, i comparti finanziari. Banche e assicurazioni hanno perso fino al 31% dopo il pessimo bilancio del 2008. Sulla scena internazionale i migliori titoli si confermano gli energetici, i tecnologici e quelli legati alla cura della persona, che negli Stati Uniti hanno realizzato guadagni intorno al 10%. Ma il mercato vive di aspettative, così c'è chi è già pronto a scommettere sul prossimo mini rally dei titoli legati al costo della vita e quindi a un riaccendersi dell'inflazione e dei tassi di interesse. Nessuna certezza però, almeno fino alla metà del 2009, così l'unica strategia possibile al momento sembra essere la diversificazione. Un altro spettro poi si aggira all'orizzonte, l'ondata di titoli di Stato che sta per investire il mercato. Oltre al rifinanziamento di quelli in scadenza, ne arriveranno altri per un valore di circa 4.000 miliardi di dollari, emessi dai governi dei vari paesi per coprire i piani di salvataggio delle banche e di sostegno alle economie. Gli investimenti però non si distribuiranno equamente, ma privilegeranno i titoli più rassicuranti, come quelli del Tesoro americano e in Europa i Bund tedeschi. Le differenze tra i vari emittenti le faranno quindi i rendimenti. Meno di un mese fa lo spread BTP Bund aveva toccato il suo massimo storico a 173 punti base, ma il vero problema è chi comprerà questa massa immensa di titoli di Stato che arriveranno sul mercato. Magari anche questa domanda gireremo a Giuseppe Marsi, perché anche questo è un grandissimo interrogativo che in molti si faranno per tutto il 2009. Allora, il nostro interlocutore di Salvadanaio di oggi, Giuseppe Marsi, country head di Schroders per l'Italia, amministratore delegato di Schroders Italy Sim. Schroders è un blasonatissimo gruppo inglese e le chiedo subito, Marsi, così di spendere qualche considerazione su quanto accaduto ieri sui mercati. Abbiamo già detto prima, abbiamo visto giornate ben peggiori, però continua ancora un po' a spaventarci quando il mercato azionario perde fra il 4 e il 5%. Cosa non ha convinto di questo piano presentato dal segretario al Tesoro statunitense? Ma quello che non ha convinto è che tutti si aspettavano la bacchetta magica e effettivamente una ricetta molto precisa su come risolvere la crisi del sistema creditizio americano. La gente naturalmente vorrebbe sapere, uno, quanto le banche americane stanno perdendo e possono perdere ancora se valutano i loro investimenti ai prezzi di mercato. Due, come sostituire tutti i responsabili delle banche americane con altri. Tre, come salvare le banche americane e garantire i depositi alla gente. È naturale che queste sono tre cose che non poteva dire in questo momento, anche perché credo che le risposte a queste domande non possono in questo momento ancora essere fatte. E io credo che il mercato inizierà a vedere il futuro un po' più positivo quando si daranno delle risposte concrete a queste tre domande. Tra l'altro è una questione che riguarda anche noi da quest'altra parte dell'oceano, il dibattito è abbastanza cruciale, lo abbiamo visto anche in questi giorni all'Ecofin, quindi a Bruxelles, come possono fare le banche a valutare gli asset tossici, chiamiamoli così, che hanno ancora in bilancio. Non esiste sicuramente un grande perito autorevole, Marsi, che possa essere in grado di eseguire questo lavoro, e questo forse è anche quel motivo che rende così difficile la costituzione sia negli Stati Uniti che anche da quest'altra parte di questa famosa bad bank, la banca che possa contenere tutti gli asset tossici appunto delle altre banche commerciali e ma anche di investimento. Ma io sulla questione della bad bank, devo dire la verità, non ci credo molto, non ci ho mai creduto io personalmente, perché ritengo che non solo manchi l'esperto, ma la capacità anche di valutare certi asset, ma soprattutto che potere avrà politico chi deciderà a quanto comprare da una istituzione ad un'altra certi asset che comunque non sono valutabili. Quindi io credo che veramente il potere politico che potrebbe avere questa bad bank è talmente tanto grosso che nessuno alla fine glielo darà. E quindi insomma continueremo ad osservare attentamente lo sviluppo del dibattito su questo argomento che è fondamentale. Poi ieri chiaramente il piano Gartner è stato delineato nella sua chiarezza, presenta molti altri punti sui quali questa mattina non ci spendiamo. Il tema è in questo momento come si stanno muovendo le autorità per in qualche maniera limitare anche la grande volatilità di mercato che si è vista negli ultimi mesi, cercare di mantenere sotto controllo la crisi finanziaria per quello che è possibile, perché abbiamo visto che in certi momenti è stato assolutamente impossibile, e da qui cercare di aiutare anche il piccolo risparmiatore a muoversi con attenzione in uno scenario così difficile. E allora, Marzi, questa crisi, secondo lei, il fondo l'ha toccato o no? Ma è difficile dirlo. Se guardiamo i numeri, quanto è stato speso per venire fuori dalla crisi, e guardiamo dove siamo ancora, direi di no. Poi il fondo dipende, se noi consideriamo un fondo da un punto di vista economico e quindi dell'andamento della disoccupazione, del problemi di fatturato di aziende, del problema dei fallimenti bancari, direi ancora di no, però il fondo potrebbe anche essere toccato prima, e quindi basterebbe che noi diventassimo più ottimisti. Come fare a diventare più ottimisti? Torno a quello che ho detto prima: dobbiamo capire veramente quanto è il problema e qual è il problema e come questo problema verrà risolto. Finché si dicono delle cose non chiare, francamente l'ottimismo non torna. Ma lei realisticamente ritiene che ci possa essere qualcuno in grado di dire questo? Ma io quello che dico è, innanzitutto la verità è che dobbiamo ricapitalizzare le banche. Poi politicamente è naturale che tutti dicono questo non basta, bisogna anche la verità è che lo devono fare i governi, che non hanno più un soldo la verità neanche è che con cui devono piangere. Farli i governi, però i governi, è naturale che il Congresso americano, se uno li presenta, gli dice: io ho bisogno di 3.6 trillion di dollari per ricapitalizzare le banche. È naturale che il Congresso gli dice: alt, perché dobbiamo salvare i banchieri che ci sono e roba del genere mentre la gente sta perdendo il lavoro? Per cui il rischio è che questo, se veramente questo 3.6 o 1.5 o 2, non so quanto, la cifra che serve deve essere controbilanciata anche da altre politiche di sostegno sociale, è naturale che andiamo verso dei numeri importantissimi. Il vero problema che si diceva prima è che questi numeri importantissimi devono essere finanziati. Se non c'è crescita economica, non c'è risparmio, chi li finanzia? Gli unici risparmi in giro per il mondo in questo momento sono in Cina e sono in Giappone, ma questi stati siamo sicuri che useranno i loro risparmi, che tra l'altro non bastano per comprare i titoli americani, o faranno delle politiche espansive loro stessi? E quindi qua torniamo al vero fulcro, che non solo dobbiamo salvare le banche, ma dobbiamo anche cercare di trovare i soldi necessari per far partire questa economia e soprattutto per salvare queste banche. Dove ci sono questi soldi in giro per il mondo? Questa è una bella questione, perché il mondo sta purtroppo rallentando, quindi è un pochino, è un cane che si morde la coda, e più si va avanti più questo cane rischia di farsi male. Quindi quello che il mercato veramente vorrebbe sapere è: diteci quanto le banche stanno perdendo e come facciamo a salvarle. Insomma, probabilmente prima o poi ci sarà, speriamo, un'assunzione di responsabilità generale che porti a questa ammissione appunto di responsabilità di conseguenza. Allora, in tutto questo frangente così complicato, così delicato dal punto di vista economico, finanziario, e ci metto anche politico, perché poi ovviamente tutta la questione si traduce anche in schermaglie politiche, come stiamo vedendo al Congresso americano in questo momento, i piccoli investitori devono pur qualche decisione prenderla, e ovviamente in molti in questo momento brancolano nel buio. Sentiamo allora cosa ne pensano i nostri amici all'800240024. Comincerei con Diego dalla provincia di Milano, che forse vuole intervenire proprio sul piano americano. Diego, mi sbaglio? Sì, certo, buongiorno, saluto voi, grazie per avermi dato la parola, e anche il vostro ospite. Sicuramente, guardate, io sono un piccolo risparmiatore, dico quello che vivo di prima persona, come vive tante altre persone, e ho un'attività in proprio con dei problemi e tante cose da risolvere. Però anche nella mia piccola attività, quando c'è qualcosa che non funziona, pianifichiamo cose che sono da sistemare, guardiamo di quanto siamo fuori, vediamo, studiamo un rientro marginale, ma i conti sono ben chiari. Qua mi sa che ci stanno prendendo tutti in giro, non si sa quanto le banche sono esposte, diamo credito, perché se no la gente va in panico e succede una rivoluzione. Io mi sento molto preso in giro, sinceramente. Io faccio il mio lavoro e pago anche le tasse, e quindi vorrei che anche voi dell'informazione andaste proprio dentro nel problema per sapere realmente cosa è successo, perché questi finanziamenti, oltretutto in grande quantità, tantissimi soldi, non hanno, anzi hanno fatto perdere la borsa americana il 5%, qua vuol dire che sotto qualcosa c'è veramente, è un buco enorme. Magari più di così non poteva perdere ieri, perché tutto sommato di strada al ribasso ne ha fatta tanta nell'ultimo anno e mezzo. Diego, però le vorrei chiedere anche, ovviamente prendendo atto di queste due sue considerazioni che appartengono a molti altri che ci ascoltano, lo leggo anche dai nostri messaggi, mi chiedo però lei come si sta muovendo in questo momento. È diventato più difficile per lei prendere una decisione di investimento e di risparmio al di là della gestione della sua azienda, come ci stava raccontando? Allora, francamente, io i miei risparmi non so dove metterli. Cioè, non so, io ogni tanto ho investito anche in borsa, ho guadagnato e ho anche perso nell'ultimo anno, magari quello che ho guadagnato in 4-5, però vorrei tornare però con un mondo più pulito, con una situazione molto più chiara. È come vedere la propria famiglia andare male e non sapere perché va male, cioè questa cosa qua mi dà un grandissimo fastidio. Infatti ha utilizzato la parola che avrei voluto utilizzare io. Diego, io la ringrazio molto per la sua testimonianza. Tra l'altro, Giuseppe Marzi, Diego rappresenta un po' anche un sentire comune di cui abbiamo parlato tantissime volte nel corso di almeno gli ultimi 2 anni. Il grande problema da una parte della liquidità e dall'altra della fiducia che riguarda tutti, no? Lui è completamente sfiduciato, dice: io ce l'avrei anche, ma dove li metto? Non mi fido più di niente. Ma lui, il signor Diego ha assolutamente ragione, ed è un po' il discorso che facevo prima. Quello che è mancato ieri è una quantificazione onesta del problema. C'era soltanto 3 pilastri con cui il governo americano, che il governo americano utilizzerà, ma non c'era una quantificazione del problema. Allora, naturalmente, ma secondo lei avrebbe potuto farlo la presidenza Obama? Poteva dire: noi stimiamo questo, però potremmo sbagliarci, potrebbe essere più grosso, però riteniamo che, anche perché ci sono degli economisti che le cifre esatte le hanno date, le fanno e le danno, per cui perché le devono dare degli economisti che, guarda caso, poi sono quelli che magari ci hanno azzeccato di più negli ultimi 2 anni? Guarda, Nuria Rubini ha dato delle cifre molto precise. Perché il governo americano non le dà, le contesta, ne dice che sono più alte o più basse, eccetera? No, dice soltanto faremo, però di fatto non dice qual è il problema. E quindi, come diceva Diego prima, siccome non so qual è il problema, penso che stiano barando. E questa è la fiducia, mancanza di fiducia. Insomma, vedremo allora fino a quanto vorranno spingersi le autorità tutte verso questa mancata ammissione sulle condizioni reali della finanza e del comparto, appunto, bancario internazionale. Vedremo quando riterranno che appunto magari la borsa ha schiato il fondo, quando i titoli di Stato avranno toccato i rendimenti minimi. Magari ci sarà anche un punto in cui si riterranno soddisfatti e da lì in avanti appunto ci sarà invece una chiara ammissione su quella che è la situazione reale. Detto questo, però, torniamo poi alla scelta di investimento individuale in una situazione in cui ancora tutti brancolano un po' nel buio. Simone da Brescia, lei è interessato ad un comparto particolare, vedo? Sì, innanzitutto grazie per avermi telefonato. Io vorrei sposare la tesi del radioascoltatore Diego e del vostro ospite. 2 cose velocissime. Una, anch'io sono indignatissimo, perché io lavoro il sabato, anche la domenica, e quando vedevo la mattina, la scorsa estate, le pubblicità di queste finanziarie italiane, Equinon, Agos, faccio pure i nomi, tanto sì, non e mi interessa. Poi, Simone, noi parliamo di una zona che è rimasta molto, come dire, immune dalla crisi internazionale, perché poi le banche italiane tutto sommato se la sono scampata. Sì, è vero, però il concetto che piano piano trasmette, diciamo, il seme anche da noi, perché quando io ho l'amico che vede la pubblicità la mattina, io stando sulla macca posso andare in ferie, come ci vai tu, fa il finanziamento, però io ho visto che anche io ho un'attività, adesso la banca, io sono un'azienda sana, devo pagare per tutti quelli che non sono sani. Intanto la banca i soldi li ha intascati, se li sono distribuiti. Io sono anche azionista di Unicredito, Banca Intesa, cioè li ho presi anch'io, per carità. Però Ti promettono, dicono bilancio stratosferico, in 3 mesi sparisce tutto. Io ho fatto questa piccola analisi. In questo momento l'unico modo dove mettere i soldi, che c'è anche questo problema, per guadagnare qualcosa più dell'inflazione, anche diciamo, i titoli di Stato in botta brevissimo non rendono praticamente nulla, dato che hanno promesso tutti i governi che i bond sono delle banche saranno garantiti, è comprare bond. Cioè l'azionario, per me, io ero un amante dell'azionario, ma in questo momento un anno, 2 anni qua cedono e non li vedrei più. E allora più bello di investire in i bond di, non più l'azione, ma i bond di Telecom, di Finmeccanica, se l'ho finita ragione, nel senso che se ho capito bene, l'azienda può non distribuire gli utili tramite dividendi, diciamo, in borsa, sì. Ma un'azienda, se non rimborsa un bond, va in fallimento. Eh sì, Simone, eccoci ritrovati a Salvadanaio, dove questa mattina abbiamo preso la palla al balzo, commentando ovviamente l'attualità, la nuova ondata di vendite che ha riguardato il mercato azionario da ieri e in tutta la giornata di ieri, perché il mercato non è sembrato particolarmente convinto dal piano di sostegno al credito presentato dal segretario al tesoro statunitense Timothy Geithner. Poi ovviamente, partendo da lì, stiamo di nuovo invece riaffrontando un po' le esigenze di investimento e di risparmio da parte dei nostri ascoltatori. Che scelte stanno prendendo? Sono giuste? Sono sbagliate? Ma abbiamo sentito anche molte testimonianze di fastidio e di indignazione da parte degli ascoltatori, che ovviamente commentano, come è naturale che si faccia in una fase come questa, anche la situazione appunto delle banche, nei confronti delle quali c'è ormai la totale sfiducia. Chi è con noi questa mattina? Giuseppe Marsi, amministratore delegato di Schroders Italy Sim. Marsi, il nostro ascoltatore, di cui adesso tra l'altro, visto che non mi sono più neanche segnata il nome, però insomma parlava del suo orientamento all'investimento in questo momento, che è proiettato all'obbligazione societaria, in particolar modo bancaria, perché lui dice: con i piani di intervento fatti dal governo, i governi si sono impegnati tutti a garantire le obbligazioni bancarie appunto emesse in questa fase, per cui diciamo questo è, come dire, la questione di sicurezza che mi porta anche ad un investimento di questo tipo. Fa bene o fa male? Ma io direi che sta seguendo l'onda. L'onda in questo momento sta dicendo: comprate corporate bond, comprate obbligazioni emesse da società. E non vi nascondo che noi come società nel mondo la nostra raccolta netta è data grazie a questi investimenti di corporate bond. Però io farei una considerazione su questo. Io credo che dobbiamo essere realistici ed analizzare la situazione in modo forse un po' più pacato e un po' più lungimirante, suddividendo quello che è il breve termine da quello che è magari il medio-lungo termine, quindi 1 o 2 anni. Allora non voglio dire comprate azioni eccetera, come di solito si dice, ma quello che vorrei fare è una considerazione sul ciclo economico. È naturale che in una situazione di crisi bancaria e in una situazione in cui le imprese fatturano il 40% in certi casi in meno, non si può parlare di inflazione, è impossibile parlare di inflazione. Qua lo scenario nel breve è uno scenario deflattivo, quindi è uno scenario in cui i beni e i valori reali scenderanno. Quindi in una situazione deflattiva quello che uno dovrebbe fare è forse anche accontentarsi di zero di tasso, ma avere la sicurezza che quando si ha bisogno di soldi li si ha subito. Almeno insomma, il capitale di base viene preservato. Sì, anche perché in deflazione che cosa succede? Uno può perdere un lavoro, un'azienda può non avere il circolante sufficiente e deve attingere al grasso, diciamo, è un po' come l'orso prima di andare, quando va in letargo deve usare il grasso che ha fatto durante l'estate. E questa, Marzia, è la situazione attuale. La situazione subito dopo che cos'è? Aumento enorme di debito pubblico. L'aumento enorme di debito pubblico può essere ripagato, uno, con l'aumento della tassazione, improponibile con tutte, con le tassazioni già molto alte in una situazione di ciclo economico non felice. Politicamente assolutamente impopolari ovunque, certo. Oppure con l'inflazione. L'inflazione da che cosa è generata? Dal fatto che a un certo punto saremmo talmente tanto oberati di titoli emessi da società, da stati, eccetera, che faranno a gara a chi darà il tasso maggiore, no? Che a un certo punto avremmo la sensazione che la carta è carta, ok? Mm. Quindi questo quando potrebbe succedere? Potrebbe anche succedere purtroppo tra 10 anni, in Giappone non è ancora successo, non so se mi spiego, no? Quindi noi siamo in una situazione in cui il breve termine, che è liquidabilità, state attenti a chi date i soldi e state attenti, diciamo così, di averli molto molto liquidi e liquidabili, no? Questo si scontra con il fatto che a un certo punto bisognerà tornare a comprare beni reali. I beni reali poi ognuno si comprerà quelli che vuole, c'è chi comprerà le case, c'è chi comprerà le commodities, c'è chi comprerà le azioni, ma beni reali perché? Perché a un certo punto saremmo oberati di nuovo da un sacco di carta. E questa carta, per farla circolare, per metterla nei portafogli anche degli investitori, dovrà essere resa più appetibile più attraverso appetibile. Una più alta remunerazione. Certo, e poi per circolare questa carta che cosa dovrà esserci? Dovrà esserci un po' di inflazione, dovrà esserci il fatto che i beni reali aumentano di valore, no? Quindi ci dovrà essere inflazione per risollevare il tutto, perché se noi siamo seduti su un sacco di carta e guardiamo le case, ogni mese le case scendono di valore, ogni mese il petrolio scende, ogni mese i ristoranti costano sempre di meno, noi staremo sempre seduti sulla nostra carta e non faremo circolare i soldi. Capì? Quindi è molto molto, io quello che invito gli ascoltatori a fare, state attentissimi che la soluzione di investimento adesso potrebbe essere quella peggiore in futuro, quindi bisogna avere questa presenza di spirito di capire quando a un certo punto i beni reali vanno ricomprati. Ecco, questo è un altro tema sul quale però è impossibile fare delle previsioni. Marzi, lei mi insegna che negli ultimi mesi molti di voi hanno abbandonato, appunto, probabilmente forse lo avrà fatto anche lei, ogni tendenza al formulare previsioni di medio o lungo periodo, e siccome nessuno saprà quello che succederà, mi chiedo se lei invece ha la capacità in questo momento di poter individuare il momento potenziale in cui, insomma, questo scenario inflattivo tornerà a manifestarsi, e come allora, se se ne ha la consapevolezza, poter suggerire ad un investitore di muoversi in vista di uno scenario di questo tipo, con che strumenti anche di protezione? Io quello che invito a fare gli investitori è: uno, non affrettarsi a impiegare i soldi per avere 2-3% in più, se questo 2-3% in più genera una illiquidità dei soldi stessi. Stare molto attenti in questo. La seconda cosa è dire ai risparmiatori che comunque si mantiene la ricchezza nel lungo termine con beni reali. Non voglio sponsorizzare borse piuttosto che altro, dico soltanto beni reali in genere. Anche perché se consideriamo il lungo periodo di 10 anni, quello che abbiamo, certo, alle spalle, come sappiamo bene, la crisi attuale ha bruciato la cosa, e se andremo a vedere il valore delle nostre case tra poco, probabilmente varranno di meno, eccetera, eccetera. No? Però ecco, non facciamoci portare nell'idea che i beni reali continueranno a scendere per sempre e per tantissimo tempo. La vera cosa è che piano piano dovremmo ritornare sui beni reali. Quando? Io quello che consiglio di fare è: date un occhio molto attento all'andamento della disoccupazione. Quando la disoccupazione smette di crescere, vuol dire che la situazione economica sta migliorando. Ma cominceranno forse ad esserci un po' più redditi, insomma, in circolazione, quindi sì, ma forse soprattutto prima di quello cambierà la fiducia. Se noi avremo dei governi che ci dicono: questo è il problema, così lo risolviamo, vedete che la gente che l'ha generato tutta a casa, probabilmente questo anticiperà ancora di più. Insomma, questo è il suggerimento di Giuseppe Marzi: dare un'occhiata a questo indicatore macroeconomico reale, che potrebbe segnare, qualora cambiasse la tendenza, un'inversione di tendenza generale. Intanto continuerei a sentire anche i nostri amici. Adriano da Roma, che aspetta da un po', buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto grazie per l'ospitalità. Grazie. Io sono un piccolissimo risparmiatore, che ho sempre fatto parte dei bot people, quindi è una vita che ogni 6 mesi rinnovava i miei bot. Però all'ultimastra semestrale i bot hanno dato al netto, togliendo il 12,50 le commissioni, hanno dato l'1,10%. E stamattina quindi sono finiti ancora sotto, Adriano, le devo dire. L'1,07 per i trimestrali e l'1,2 per gli annuali. Io allora, nel mio piccolo, ho cercato di fare di salvare le mie galline, E per la prima volta mi sono rivolto a Conto Arancio, ah, e ho aperto un conto di liquidità, insomma, ne abbiamo parlato tante volte anche che qua. Praticamente danno 4,25 lordo, che togliendo il 27% è il 3,10 netto. Sì, ha preso una promozione, diciamo, recente, perché poi in realtà questo è un tasso promozionale per i nuovi sottoscrittori, credo, Adriano, sì, però sì, insomma, sì, lei prendendolo adesso lo mantiene per un po'. C'è anche un piccolo particolare che magari si può dire, che praticamente è per 6 mesi la promozione, però aprendo questo conto in uno stand in un centro commerciale viene la promozione, viene prorogata a 9 mesi. Ma sì, insomma, le banche si attrezzano, ING è stata pesantemente anche ricapitalizzata dal governo olandese, per cui è chiaro, loro mantengono comunque questa filosofia di fare delle politiche promozionali molto molto aggressive. Siamo Adriano, comunque, detto questo, sì, no, detto questo, lei insomma è passato dai bot al conto di liquidità. Esatto, voleva sapere ho seguito anche il consiglio del suo ospite, che dice di sempre i soldi liquidi sempre disponibili. Beh, diciamo che un po' più liquido del bot può essere, come diceva lui, si può prendere da lì. Diciamo che un po' più liquido del bot, dopo il bot c'è solamente il conto di liquidità. Giuseppe Marsi, allora Adriano da Roma dice: io sono stato sempre un affezionatissimo ai titoli di Stato italiani, però vediamo quello che sta accadendo sui rendimenti, lo Stato è sempre meno generoso, questo è stato determinato anche dalla domanda, dalla ricerca di protezione, da quello che in finanza si chiama il flight to quality, no? Quindi l'uscita dal mercato azionario per tornare su quello obbligazionario governativo, questo ha comportato le inevitabili tendenze sui rendimenti, però lui, pur essendo un bot people, come si è definito, in realtà un po' dal rendimento è tentato, infatti dice è andato a cercare un conto di deposito che però riconosce una remunerazione interessante. Sì, ma direi che questo è il percorso che faranno un sacco di nostri ascoltatori, no? La ricerca di un investimento liquido sicuro, qui devo dire l'attenzione alla sicurezza in primo ordine, è remunerato maggiormente rispetto a titoli di Stato. Questo perché succede? Perché i conti di liquidità in genere sono dei conti che non vanno utilizzati da investitori istituzionali, ma vanno utilizzati dai piccoli risparmiatori. È naturale che dobbiamo anche pensare invece alle grandi istituzioni, ai grandi investitori che non hanno a questo accesso. Poi sicuramente la ING in questo momento è una banca, quindi come tutte le banche si ha c'è il presupposto che dopo Lehman non fallirà nessuna banca, per cui di fatto c'è il concetto di sicurezza, c'è il concetto di liquidità, e a parità di sicurezza e di liquidità è naturale che il risparmiatore andrà dove incasserà di più. E poi insomma, se Adriano ritiene che questa è la sua esigenza in questo momento, l'importante è che sia sereno lui. A proposito ancora di titoli di Stato, siamo riusciti quasi completamente, Marzia, a non parlare di mercato azionario né di settori come avevamo indicato nella nostra scheda, però è evidente anche da quello che ci raccontano gli ascoltatori che le preferenze stanno andando in un'altra direzione in questo momento, o comunque le scelte più che preferenze. Antonio da Lucca, buongiorno. Pronto? Antonio, eccoci a lei. Sono in linea? È in linea, è in diretta. Ecco, buongiorno, complimenti per la trasmissione, Deborah, molto professionale. Scusate se sono un po' emozionato. No, allora, non si emozioni. Io volevo dire questa cosa qui. È un certo periodo che mi sto buttando sui titoli di Stato, sui BTP. Sì. Ecco, io mi fido dello Stato italiano. I miei soldi, anche se lo Stato italiano non è come rating una tripla, intendiamoci, però mi fido totalmente, ciecamente dello Stato italiano. Io sto comprando delle cose, è naturale che a corto tempo danno poco i titoli, i BTP. Io però sto comprando, voglio dire, insomma, è naturale a lunga, 10-20 anni. Il BTP, il però, classico decennale. Le persone hanno paura a comprare a lunga perché possono pensare che magari a 10-20 anni non possono rivendere questi titoli qui. E invece per me non è così, perché io agosto del 2008 ho comprato un titolo che mi sta rendendo il 5% al 2012 e l'ho comprato intorno alle 100 lire, cioè alla pari. Ora questo titolo qui, guardandolo, è 106 lire, cioè io se lo vendo oggi guadagno queste 6 lire. Ecco, però è naturale che bisogna sempre guardare la borsa e vedere, voglio dire, quello che fa. E... No, poi guardare anche lo strumento di investimento su cui si punta, cercare di sforzarsi di capirne la dinamica in relazione a quello che succede, che ci succede intorno, Antonio. Quindi lei mi sembra anche una persona molto, molto consapevole, insomma, della scelta che ha fatto. Perché non c'è altre cose che possono rendere il 5, e proprio stamattina io sono andato in banca e ho fatto un altro BTP al 2029. Lei come la vede? Ma il concetto della diversificazione a casa sua come viene visto, Antonio? Nel senso che lei comunque è solo un sostenitore del titolo di Stato e del titolo del debito italiano, o comunque ha un giardinetto un po' più ampio? Cioè è naturale che io, avendoci una certa, cioè io sono un medio investitore, e però voglio dire, no, cioè mi sono imposto qualche tempo fa, quando vedevo che andavano tutti i titoli a basso interesse, mi sono buttato su questi titoli di Stato. È naturale, voglio dire, che anche a lunga si possono comprare, però è naturale che bisogna starci dietro a questi titoli qui, perché se i tassi di interesse aumentano, ecco, bisogna cercare di venderli. I rendimenti, insomma, vanno da tutt'altra parte. Bisogna starci dietro, però in questo momento qui il 5%, il 5,25% è abbastanza, è buono come interesse. Insomma, non accontentiamoci, non buttiamo via niente. Antonio, la ringrazio. Volevo girare il suo caso a Giuseppe Marsi, perché poi tra l'altro il caso del BTP, del nostro titolo decennale, è un caso molto interessante per tutta la questione che c'è stata di allargamento dello spread con il pari titolo tedesco, il Bund, quindi il differenziale che si è ampliato, facendo ritenere in certi momenti il nostro Stato sull'orlo di una situazione pericolosissima. Comunque, detto questo, cosa pensa dell'atteggiamento all'investimento che ha Antonio? Ma l'atteggiamento sull'investimento ha una logica, come dicevo, di breve termine, perché Antonio quello che sta dicendo è: io investo perché sto investendo nel lungo termine, perché ritengo che non ci saranno spinte inflattive, inflazionistiche nel breve. Finché non le prevedo e finché non vedo i tassi di interesse che invertono la rotta, io vado a prendere le scadenze più lunghe possibili. Ha assolutamente una logica, ha una logica soprattutto quando Antonio dice: io però devo stare attento e sto attento al fatto che sono conscio che dovrò disinvestirli prima o poi. Ecco, quindi io l'unica cosa che dico: non abbiate l'atteggiamento di Antonio se pensate di tenerli in un cassetto. Ecco, non prendete un 30 anni e tenetelo in un cassetto, perché potremmo noi avere una situazione inflattiva che in questo momento non è prevista, non si sa quando potrebbe venire, ma se verrà vi potrebbe penalizzare moltissimo. Allora, ci rimangono 2 minuti di tempo, sono indecisa se sentire un altro ascoltatore. Antonio, se mi promette che sarà brevissimo, la ascoltiamo volentieri. Sì, sono Antonio. Io. Sì, Antonio da Piacenza, esattamente lei. Va bene, io volevo soltanto far notare che si continua a parlare dei BTP, dei titoli di Stato americani, come un investimento sicurissimo. Sì, alla luce Treasury, di quello sì. che è stato detto all'inizio della puntata, proprio perché diceva: se vengono finanziati da chi ha ancora un po' di soldi, lo copriranno i loro debiti. Se no, chi ci garantisce che lo Stato americano non rischi il default? Antonio, vediamo un po' se questo è uno scenario che il mondo degli investimenti sta prendendo in considerazione. Marzi, parlando di fantasia. Ha assolutamente ragione. Ah sì? Ha assolutamente ragione. Molti economisti dicono, incrociamo le dita, che le aste dei treasury americani non vadano in qualche modo deserte. Perché in quel momento il rischio paese americano esploderebbe. È naturale che questa è una situazione direi drammatica, ma possibile. La possibilità in questo momento è ancora molto bassa. Da che cosa lo si vede? Dal fatto che comunque l'America si sta permettendo di remunerare molto poco i suoi creditori, no? E di continuare anche a battere moneta per finanziare però poi la ripresa. Però effettivamente stiamo attenti, perché già anche quest'anno in Germania c'è stata un'asta che non è andata bene, e io credo che il vero timore di tutti gli stati che si devono finanziare, e credo che li metterei tutti dentro, dall'America, la Germania, la Francia, l'Italia tutti, sì, è quello di avere delle aste che non vanno bene, per cui molto molto attenti a questo. No, devo dire che Assosim rileva anche come la domanda dei piccoli risparmiatori questa mattina sull'asta ribotti di cui abbiamo appena citato in trasmissione, è stata segnalata già in contrazione rispetto invece alla consistenza elevata che ha avuto nelle ultime circostanze, ma magari questo è un tema che spenderemo in un'altra occasione. Io ringrazio molto Giuseppe Marsi per essere stato con noi, ovviamente tutte le migliori congratulazioni anche per le nuove avventure professionali, visto che è amministratore delegato di Schroeder's Italy Sim da pochissimo, dopo una lunga esperienza in azienda con altri incarichi. Marsi, a presto. Grazie a tutti voi. Grazie. Buona giornata, grazie a Valeria Coffaro, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Noi naturalmente torniamo domani alle 8:15 a Soldi e Dintorni, alle 12 a Salvadanaio. Buona giornata da Deborah Rosciani.